Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Luca Tremolada al microfono, Luca Salvioli con lui, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Luca. Allora, oggi andiamo a vedere un tema, insomma, un tema che ci sta accompagnando da tempo, i piccoli l'importanza dei piccoli gesti quotidiani per salvare il pianeta. Noi stiamo ragionando sulle emissioni, sulla capacità che abbiamo di mettere CO2, la capacità quindi di risparmiare energia e dare una mano a Gaia, no? Alla grande organismo che è il pianeta. Siamo abituati a parlarne e soprattutto si parla tantissimo delle emissioni, quindi oggi la puntata è emissioni zero. Proviamo a capire come si può innanzitutto l'uomo condurre emissioni una vita zero. Emissioni zero. Ma soprattutto ha senso condurre una vita a emissioni zero? Perché poi il tema è quello, noi tutti possiamo nel nostro piccolo fare qualche cosa, ma dobbiamo farlo innanzitutto, non devono farlo i governi, non deve farlo un'azienda, un'impresa, perché devo essere io nel mio piccolo ad essere il più virtuoso di tutto. 824 0024, se non siete d'accordo, se siete d'accordo nell'essere virtuosi, 349 238 6666 per telefonare. Ecco, noi abbiamo invitato per darci un parere, per capire un attimino che cosa si può fare nel nostro piccolo, chi? Abbiamo invitato Cristina Gabetti, giornalista, autrice del libro Occhio allo spreco, che è uscito da due giorni, che già con il libro precedente era entrata un po' in questo mondo, no, dell'ecocondotta nella vita quotidiana, cioè quello che possiamo fare noi per limitare il nostro impatto sul pianeta. E lei prende in esame una serie di attività quotidiane, non è che fa semplicemente un elenco di cosa fare e cosa no per limitare le emissioni e il consumo del pianeta, lo fa, propone secondo me quella che è una rivoluzione culturale, poi lei ce la spiegherà, che comunque passa da noi. Anzi, lei ce la spiega subito. Buongiorno Cristina. Buongiorno, buongiorno. Ma è vero che è su un albero? Ero su un albero, ah, sì. È scesa. Sono scesa. Adesso cammino tra le foglie. Ok, quindi cioè, è molto bucolico tutto ciò. Molto diciamo, bucolico. Ed è molto in tema... La magia della tecnologia è che effettivamente sia raggiungibile ovunque. Ma mi sembra un contesto ideale per quello che... Che andiamo a dire. Perché, esatto, per quello che discutiamo. In quanto tutto poi alla fine viene fatto per salvaguardare la natura... che ci regala la vita con la sua vita. Ecco, io mi domandavo all'inizio in maniera un po' scettica, ma perché dobbiamo essere proprio noi a iniziare? Cioè, perché dobbiamo essere noi più virtuosi quando poi di fatto capiamo che è altro, cioè sono le aziende che hanno un tema vero e forte? Allora, io intanto parto dal punto di vista che non dobbiamo, io voglio, perché mi rendo conto, avendo messo 3 figli al mondo, che tutto ciò che io do per scontato e stare in mezzo alla natura per me è uno dei piaceri più grandi, non sarà necessariamente scontato quando loro saranno grandi, perché stiamo consumando più risorse di quello che il pianeta è in grado di rigenerare e quindi insomma io sono ispirata a farlo e credo che ognuno può fare la sua parte, ma soprattutto penso che sia in atto un processo bottom up. Io sono convinta che se cambia il tipo di domanda cambierà l'offerta. Sono pochi che sono così ispirati da farlo spontaneamente per conto loro. Ci sono aziende che sono nate già con questa sensibilità, ma chi non è invece nato con questa sensibilità vuole essere convinto assolutamente che ci sia il business. Affinché ci sia il business deve esserci l'acquirente e quindi ecco che torniamo a capo. Bottom up, esatto. Io la vedo in questo modo perché non vedo dei leader, se noi vogliamo prendere Obama come quello come che diciamo testimonial, esatto, non è che sta avendo vita facile. Ah no. Quando uno lo accusa di non fare ciò che ha promesso, io sostengo che non ci riesce perché fatica a farlo, insomma, è giovane e sente queste tra l'altro ancora prima di Obama, sappiamo a Copenaghen a dicembre ci sarà questa grande conferenza sul clima e già i segnali che arrivano non sono rassicuranti, cioè si va verso nulla di fatto. Ma quello è meglio, secondo me è molto meglio che a Copenaghen facciano una lista di intenti, ma che non firmino un accordo, perché sennò diventa un Kyoto bis e non abbiamo più il margine per fare questi errori. Allora, scendiamo dal tema del Kyoto, dei grandi accordi internazionali, delle grandi potenze. Noi non siamo affatto una grande potenza, noi come cittadini, ed è questa l'identità che ci interessa. Quali sono le piccole, grandi cose che si possono fare e che di cui tu parli nel libro? È una domanda tremenda, perché ho scritto due libri per rispondere a questa risposta, sono così tante. Inizio, facciamo un piccolo excursus. Intanto, ecco, per così dire la mia sul tema, vivere a impatto zero è impossibile, neanche quando moriamo siamo a emissioni zero. Diciamolo. Quindi siamo umani, voglio dire. E inquiniamo come dei dannati. Però, come dice Daniel Goleman, siamo tutti sia vittime che colpevoli, cioè abbiamo peccato di eccesso in tempi innocenti, però siccome l'abitudine si insedia con una facilità estrema e sradicarla poi è molto difficile, ci siamo tutti abituati a stili di vita che sono assolutamente desueti, sono fuori tempo, sono vecchi, per cui... se io mi trovo intanto io scelgo tutto quello che compro non solo in base al contenuto ma anche in base al contenitore, in base a quanti chilometri ha fatto, in base a come è stato fatto, mi diverte, mi affascina, mi piace fare l'archeologa moderna, informarmi. Ecco, questo aspetto del divertimento, Cristina, è curioso, nel senso che nel libro torna fuori spesso, no? Ma perché l'unica maniera, sarà la mia esperienza di madre, ma tu non riesci a imporre delle cose se non sono in un qualche modo, tra virgolette, sexy, se non c'è un appiglio di divertimento, di fascino, di interesse, per cui, ripeto, io trovo che essere contemporanei oggi vuol dire vivere con questa sensibilità. Ecco, Gabetti, stanno arrivando un po' di sms, io te li giro perché poi le richieste degli ascoltatori sono poi molto concrete. Allora, sì. C'è Giorgio Noliani che ci scrive: faccio la spesa con una borsa di tela, poi sì. Però sono costretto a comprare i sacchetti per la spazzatura di plastica, è poco logico ma non ho alternative. Allora, io faccio così, uso per la raccolta della plastica un sacchetto di plastica e devo dire con grande soddisfazione stamattina guardavo, li ho esauriti, quindi non ne ho più portati in casa e quindi adesso dovrò inventarmi. Si sono mangiati da soli, insomma. Puoi usare una borsa che poi non butti via, vai, svuoti nel tuo contenitore condominiale e poi ti riporti la borsa in casa. L'unico sacchetto che è necessario è per l'indifferenziato, però tanto va in discarica, per cui non insieme a tutte le altre cose che poi non sono purtroppo smaltibili dall'ambiente, o vanno poi vengono termovalorizzati o vengono sepolti sottoterra, ma insomma in un modo o nell'altro serve un contenitore. Anche se tu usassi un contenitore biodegradabile, se poi il contenuto non lo è, siamo da capo. Siamo appunto a capo. Il più è riempire quel sacchetto il meno possibile, e anche quello è un gioco. Io mi accorgo di quanta spazzatura riusciamo a evitare con un minimo di consapevolezza. Oggi sono andata in un supermercato perché mi è stato chiesto per un servizio giornalistico, sì? Luogo che io racconto nel nuovo libro di aver imparato a superare per una serie di esperienze anche abbastanza comiche che poi tutti viviamo. A me mi ubriacano quegli spazi. sono andata a caccia di soluzioni sostenibili, per cui il sacchetto che devi usare se compri frutta e verdura sfusi, l'ho riempito la prima volta e ho pesato quello che mi serviva dentro al sacchetto. Le altre cose le ho prese, ovviamente munita di guanto, le ho messe direttamente sulla bilancia, ho messo tutti i bollini sullo stesso sacchetto, per cui sono uscita con 4-5 prodotti diversi e un sacchetto. Ma non è una fatica immane, c'è cioè solo no, la concezione. No, guarda, alla fine se tu prendi il tempo, sai cosa? È che effettivamente a me non costa fatica perché mi diverto a ridurre il più possibile, senza essere maniaca e senza essere un estremista, ecco. A un altro farà una fatica tremenda quello, magari evita del tutto il supermercato e si iscrive a un gruppo di acquisto. Anche. In un capitolo che si chiama Grande Carrello del libro nuovo do un sacco di consigli alternativi per fare la spesa. Abbiamo molte soluzioni a portata di mano, basta appunto voler sperimentare. Comunque diciamo che intanto la rivoluzione l'hai portata in casa tua, mi pare capire che avete cambiato le abitudini. Assolutamente sì, per quello che il primo libro si chiamava Tentativi di ecocondotta, perché era proprio la cronaca dei miei tentativi e che mi piaceva diffondere, perché molti poi mi hanno portato dei buoni risultati. Cristina, stando sull'attualità, nell'introduzione si parla di un legame tra la crisi che stiamo vivendo, finanziaria, economica, culturale, e questa rivoluzione, come dicevo prima, culturale, perché poi prende vari aspetti della vita. In che senso, che collegamento c'è secondo te? Allora, il fatto che comunque, come ho detto prima, stiamo consumando più risorse di quello che il pianeta è in grado di generare, stiamo inquinando il pianeta a dismisura, per cui io credo che va interpretata in modo più attuale la parola risparmio, che quindi è un risparmio di natura economica, vuol dire però anche inquinare meno e soprattutto sprecare meno. I dati sullo spreco sono spaventosi. Sono 4.000 tonnellate di cibo ogni giorno buttate in spazzatura dagli italiani. Ogni giorno. Quanto puoi ripetere? 4.000 tonnellate di cibo. Un sacco. Veramente, ed esistono delle buone pratiche. Ne cito una perché poi l'ho indagata nel libro, che è Last Minute Market di Andrea Segre, che porta cibi prossimi alla scadenza a centri di accoglienza che sono nel raggio di pochi chilometri. Ecco, sul fronte energetico invece, perché abbiamo visto la plastica, tra l'altro moltissimi sms di ascoltatori dicono che anche loro hanno rinunciato al sacchetto di plastica e sono molto felici di questo. Però al di là della spesa, quindi del sacchetto di plastica, cioè, per quanto riguarda per esempio l'energia e quindi gli elettrodomestici e la casa. Allora, intanto tutti dovrebbero avere le apparecchiature elettroniche attaccate ad una ciabatta, e funziona anche con il decoder Skype, che uno ne dica, io lo faccio in continuazione, ogni tanto perdo un aggiornamento, ma poi lo fa dal momento che è acceso. E gli apparecchi elettronici consumano in genere più energia in attesa di funzionare che poi quando sono in funzione. Cioè, quindi parli dello stand-by, della lucetta che dà... Esattamente, per cui in attesa che smettano di produrre questi apparecchi con lo stand-by lo si può eliminare in questo modo molto semplice. Sulla casa, sulla bolletta, che poi è una voce anche cospicua dell'economia di casa... Ma la follia è che 57% dell'energia che noi consumiamo per energia elettrica e per riscaldare le nostre case viene sprecato, e ammonta ad una spesa allucinante, perché sono, aspetta, c'ho il dato nel libro, io sui numeri intanto faccio confusione e dopo ve lo dirò, comunque sono spese spaventose di energia letteralmente gettata al vento, cioè ecco. per via di cattiva coibentazione, per via del fatto, prendiamo l'esempio, io adesso sono a Milano senza cappotto e sono fuori, in casa io non ho ancora il riscaldamento, in tutti gli edifici per legge che non hanno riscaldamento autonomo è già partito, sono in funzione da 3 settimane. Certo. Lasciamo calcolare, voi siete molto bravi a fare i calcoli, ecco. Sì, infatti, no, infatti. Allora aspetta Cristina che abbiamo una telefonata. Ernesto dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda era questa. Sì. Io sono un ecologista proprio di mentalità, per cui divido tutte le cose, plastica, compro automobili ecologiche. Cosa vuol dire? No, per dire... Perché l'automobile ecologica può essere anche un controsenso, no? Nel senso, io vedo per esempio, proprio nel fatto delle automobili, si è passati dall'Euro 0, Euro 1, Euro 2, okay. Euro 3, Euro 4, Euro 5, giusto? Sì, certo. Risultato, motori più grossi che consumano di più benzina, inquineranno anche di meno, ma forse ora della fine il rapporto... E tu che macchina hai comprato? Qual è la macchina ecologica che hai scelto? Cioè, al di là del modello, la tipologia, insomma. È un 1003 a diesel. Pensavo un SUV, ti immagini? Ma io ho scelto un SUV, una cosa... No. Per cui, insomma, cerca di avere una condotta e di operare delle scelte di consumo più in linea con l'ambiente. Vi faccio l'ultimo esempio. Io sì. Sono sposato da 20 anni, ho comprato una lavastoviglie 20 anni fa, giusto? L'ho cambiata l'anno scorso perché si è rotta e non avevo più pezzi di ricambio. Ho comprato una nuova lavastoviglie doppia classe A+, giusto? Mm. Risultato, primo mese 30 euro di bolletta in più. Ecco. Vado a vedere, la lavastoviglie di prima aveva un ciclo lavorativo di 25-30 minuti. Quella di adesso ci mette anche un'ora e mezza a fare lo stesso lavaggio perché è intelligente, decide lei in base allo sporco delle stoviglie quanto tempo metterci. Secondo lei io ho guadagnato o ci ho perso? Lo chiediamo subito a Cristina Gabetti. Ma lì bisognerebbe misurare l'apparecchio singolo e vedere se è stato lui il vampiro energetico, perché anch'io ho preso una nuova lavastoviglie e impiega più tempo ad asciugare perché consumi più energia se richiami molto calore per asciugare le stoviglie che se l'asciughi a una temperatura più bassa. Per cui magari è coinciso con un altro consumo che le ha dato l'impressione derivasse dalla lavastoviglie, magari viene da un'altra parte. Comunque sì, bisogna essere... Ecco molto... Cristina, io l'ultima domanda, poi ti lascio alla natura e ai boschi. Ci sono sto rientrando vicino a un ufficio per questo. Ok, però ecco, un ascoltatore scriveva giustamente, ma ci vuole molto tempo ci vuole molto tempo a disposizione, ed è vero, cioè per poi condurre un certo tipo di avere un certo tipo di comportamento bisogna avere tempo, voglia, passione. Il tempo è una risorsa che in questo momento per la nostra società scarsa è scarsissima ed è preziosa. Ma guarda, io non credo che ci voglia il tempo maggiore, ma è più che altro una fatica, è di iniziare. Come tutte le cose, vi sarà capitato di voler così curare un po' la forma fisica e iniziare ad andare in palestra, e l'iniziare che è faticoso, poi quando vai dopo la terza volta sei così felice, ti senti tonico, è come iniziare una dieta, iniziarla rimandi, ma poi quando la fai sei troppo felice. È la stessa cosa riguardo ad una maggiore consapevolezza verso l'ambiente, nel senso che la prima volta che ho fatto la spesa col gruppo d'acquisto solidale ho detto mamma mia come faccio, in realtà mi viene consegnata a casa, non tutti i gas lo fanno ma nelle grandi città sì. E stanno andando anche molto, devo dire. Com'è? Stanno andando molto, devo dire, cioè, c'è un interesse crescente. E mangio finalmente un pollo che è un vero pollo, perché gli altri polli da allevamento intensivo io non li mangio più, ho scoperto troppe cose allucinanti sui polli. Compro frutta e verdura biologica ad un prezzo inferiore. Sicuramente c'è un ecco, noi poi sul cibo torniamo nella seconda parte della trasmissione, ma adesso noi abbiamo anche in collegamento Simone Molteni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, noi la presenta subito Luca e ti chiediamo di restare con noi perché poi stiamo per dare la linea alla borsa. Luca. Simone Molteni è il direttore del progetto Impatto Zero di LifeGate. Abbiamo parlato di come ridurre le emissioni e i consumi ed essere più rispettosi dell'ambiente con azioni quotidiane, quindi vicine a noi, proprio quelle che facciamo. C'è un'altra soluzione, cioè essere certificati emissioni zero. Cos'è che vuol dire, Simone? Posso rispondervi subito? Aspettiamo subitissimo, la borsa. Poi ci torniamo. Ok, essere impatto zero non vuol dire continuare a consumare o emettere quanto prima e poi andare a compensare queste emissioni con la creazione di nuove foreste, ma vuol dire prima di tutto mettere consapevolezza a come si produce un prodotto, a come viviamo noi, e poi il secondo step è quello che noi proponiamo, è di andare a quantificare queste emissioni in metri quadri di foresta necessari a riassorbire queste emissioni. Una compensazione. Sì, però ripeto, proprio la compensazione è il secondo step. L'obiettivo del progetto non è certo la compensazione quanto la presa di consapevolezza delle nostre emissioni, che è il primo step per ridurle. Simone Molteni, moltissimi gli SMS, soprattutto ci chiedono di capire, di avere un po' più di chiarezza sullo stand by, cioè ossia sulle quelle lucettine che hanno i nostri elettrodomestici che indicano appunto una posizione di stand by. Sì, ho visto che ci sono delle critiche che indicano dei siti dove in realtà ci sarebbero degli studi che dimostrano che non serve a niente. Adesso dovremmo vedere questi siti, andare a studiarceli, eccetera. Mi pare che sia abbastanza una cosa assodata in realtà. No, certo, poi c'è anche un tema di buon senso, nel senso che è evidente che un televisore che ha una piccola luce che indica semplicemente il passaggio di corrente sicuramente non crea dei consumi energetici e una bolletta molto pesante. Però noi ragioniamo sempre su un ottimum, e appunto volevamo chiedere anche a Molteni come si fa a calcolare l'emissione di una persona fisica. Magari aggiungo prima solo un punto sugli stand-by, che sono uno dei miei punti dolenti, nel senso uno dei miei cavalli di battaglia. Prego, prego. Anni. Giusto per dare un'informazione, oggi è vero che sempre di più si parla di stand-by, e quindi anche chi progetta gli elettrodomestici, grazie a Dio, ci ha messo un po' di intelligenza e quindi li fa che consumano poco, con delle lucine a LED, eccetera. Però soprattutto negli anni scorsi, e soprattutto in alcuni paesi, come anche la Nuova Zelanda, quindi non solo i paesi in via di sviluppo ma anche molto sviluppati, ci sono degli standard che consentono ai costruttori ancora di mettere degli standby che consumano 100 watt, che hanno una potenza di 100 watt, quando lo stesso prodotto oggi fatto dal miglior produttore al mondo consuma un watt, quindi senza costi aggiuntivi per la progettazione. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che ci sono dei margini enormi di risparmio, perché queste cose, per quanto piccole, sono tantissime e poi stanno accese 24 ore al giorno magari e per 365 giorni all'anno. C'è qualcuno che ha fatto tutta una serie di calcoli e si semplicemente cambiando gli standard di certificazione degli elettrodomestici, quindi imponendo per esempio che gli standby devono essere inferiori a il consumo degli standby deve essere inferiore a un watt e mezzo, cose che già facciamo, quindi non stiamo parlando di fantascienza, si potrebbero spegnere qualcosa come 800 centrali a carbone. Ammazza. Di produzione energetica. Moltissimo. Quindi, abbiamo una telefonata di Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dunque, io faccio l'ingegnere elettronico e mi occupo proprio di questo tipo di argomentazione. Sì. Dunque, volevo fare un esempio banale per il pubblico che appunto magari non ha le nozioni tecniche. È chiaro che se un bodybuilder deve spostare 10 sacchi di cemento magari ci metterà un'ora. Una persona che non fa il bodybuilder sposterà gli stessi sacchi di cemento, quindi la stessa quantità, magari in una giornata. Voglio dire questo come esempio perché l'energia è la stessa, i pesi sono gli stessi, indipendentemente dal tempo che lei citava prima. Voglio dire, la potenza purtroppo è quella, nel senso che è una forma di energia che ha una misura, che è quella dei watt, per cui se certo. Allungo il tempo non cambia quello che riguarda il consumo. Per quanto riguarda lo stand-by, noi stiamo facendo un ottimo lavoro con dei prodotti e devo dire alla persona che parlava prima, non ho capito bene chi è, ma mi scuso per questo, che dal primo di gennaio di quest'anno, in effetti, in Europa il comitato Cenelec di Bruxelles metterà ufficialmente in campo la direttiva Standby o esatto. Energy Star o Very Low Power Measurement, di cui noi siamo appunto una società tra le prime a proporre la strumentazione di misura. Per quanto riguarda questo argomento, va detto che la misura di un watt di standby è disattesa da quasi il 90% dei costruttori oggi, questo lo vorrei chiarire. Noi abbiamo fatto misure di standby su un elettrodomestico come, voglio dire, una lavatrice piuttosto che una lavastoviglie, un forno, un piano di cottura a induzione, che superano abbondantemente anche 10, 12, 15 watt oggi. E sarà un grosso dilemma quello di risolvere, quello di scendere con la potenza dello standby, perché chi parlava prima presumo lo sappia, ma ci sono delle problematiche legate ai filtri d'ingresso, che sono poi dei condensatori collegati da sotterra, che da soli consumano correnti di 50, 60, sì, sì. Tra l'altro, Roberto, se mi scrive, cioè se scrive a novalab24@radio24.it, noi torneremo anche su questi temi sulle pagine di Nova 24, per cui molto sarei volentieri. Molto felice di raccogliere le sue informazioni. Grazie. Abbiamo anche Edoardo da Milano. Buongiorno. Salve, volevo chiedere una cosa rispetto al riscaldamento centralizzato. Io in Germania ho visto la contabilizzazione differenziata con il riscaldamento centralizzato, che permette a una persona di tenere aperti i caloriferi quanto vuole in funzione delle sue esigenze e di pagare in funzione di questo. Questo è un incentivo alla fine a consumare, sì, meno, e mi pare oltretutto una tecnologia molto semplice, perché sono delle placche chimiche che si mettono sui caloriferi, una volta all'anno si va a vedere quanto uno ha consumato. Io non lo capisco perché non lo si faccia. Non la Germania è sempre un esempio sul, sì, risparmio, sul solare, tra l'altro, energie rinnovabili. Proviamo a sentire cosa ci dice Simone Molteni. Senza entrare troppo sul tecnico, il riscaldamento e gli edifici in generale sono responsabili delle emissioni di ogni Stato, dei responsabili importanti, quindi dal 40 al 50% delle emissioni di ogni Stato sono legati al settore residenziale, quindi quello che noi facciamo a casa, come illuminiamo, quindi come usiamo l'energia elettrica e come ci riscaldiamo, quindi come usiamo gas per esempio per il riscaldamento, ha sicuramente dei margini di miglioramento importanti. Ci sono N tecnologie oggi che permettono di migliorare, da cose molto semplici che ci sono da tanto tempo, come le valvole termostatiche, a sistemi molto più avanzati legati per esempio alla domotica, per cui io posso tenere spento. Però è tutto un fai da te. Sì, no. C'è sempre di più, ci sono delle aziende che forniscono questi, okay, sistemi in maniera insomma con chiavi in mano, senza dover essere per forza dei bravissimi hobbyisti che riesce a metterci le mani. Parla uno che ogni volta si fa male. Ecco, infatti siamo in due. Noi abbiamo anche in collegamento, abbiamo Christian Klockel. Abbiamo parlato prima anche di alimentare, perché è un altro dei segmenti dove si può fare molto, che è un ricercatore, anzi il direttore dell'unità di ricerca UAB di Venezia, che ha realizzato insieme alla Coldiretti locale un AgriPod, che è sostanzialmente la carta d'identità dei prodotti agricoli locali, ci dice da dove vengono, l'età che hanno. Ci fa il calcolo della CO2. Esatto, quindi vita, morte e miracoli non solo della CO2, grazie alla tecnologia RFID. L'abbiamo in collegamento telefonico, Christian, sì, magari ci può spiegare lui direttamente come funziona il loro prodotto. Ciao Christian. Ciao, ciao, buongiorno, grazie per l'occasione di raccontarvi qui del nostro progetto. Noi abbiamo fatto questa collaborazione da parte della Facoltà di Design e Arti dello UF di Venezia con Coldiretti sul tema di raccontare al consumatore finale il percorso, la filiera produttiva del prodotto agricolo locale. Questa combinazione tra Facoltà di Design e Coldiretti ci è sembrato particolarmente interessante, perché a noi dalla parte di design interessa come tradurre nuove tecnologie e il potenziale di nuove tecnologie in valore verso l'utente finale. Ecco, ma il senso di queste apparecchiature, insomma, è anche quello di dire: non consumiamo, non so, i fagiolini del Ghana, perché il trasporto del fagiolino fino in Europa costa moltissimo in termini di carburante, di energia. Ecco. Di concreto, questo AgriPod è un dispositivo che... E questa è un po' la filosofia, no? Sì, sì, che si trova nel momento dell'acquisto del prodotto, l'utente, avvicinando l'imballaggio, che contiene appunto un'etichetta elettronica di radiofrequenze, riesce a visualizzarsi tutta la filiera produttiva che quel specifico prodotto agricolo ha percorso, quindi dalla data, dal luogo di semina, fino alla raccolta, al lavaggio e ai successivi passaggi di lavorazione, ottenendo un complessivo di un chilometraggio che ha trascorso questo prodotto. In questo modo, e questo mi sembra praticamente interessante, forse un po' si lega al discorso che ha fatto la signora Gabetti prima, Cristina Gabetti, diamo un po' la responsabilità e la scelta, perché è giusto che sia, all'utente finale, che quindi, avendo più informazione e più consapevolezza della provenienza del prodotto, riesce ad attuare una scelta più consapevole, anche in termini energetici, che sono entrati nel garantire la fornitura di tale prodotto. Perché è chiaro che se un frutto arriva da 20 chilometri di distanza, e un discorso, certo, se arriva da migliaia di chilometri da un altro continente, l'energia complessiva spesa per fornirci questo tipo di prodotto, ecco, aumenta di tanto. Grazie, io volevo tornare con Cristina Gabetti, se è ancora collegata. Ci ci sono, io tra l'altro vi puntualizzerei due cose veloci avendo ascoltato con attenzione quello che è stato detto. Quindi riassumendo, lo stand by in attesa che si risolvano, si trovino le soluzioni migliori, tanto vale mettere questa ciabatta. Comunque si risparmierebbero, dicono i dati, fino a 3 miliardi di euro l'anno in Europa solo eliminando lo stand by. Quindi credo che valga la pena in attesa di fare questo sforzo. Quanto alla contabilizzazione dell'energia di riscaldamento, queste sono tecnologie che si stanno anche applicando in Italia, è ovvio che deve passare per l'autorizzazione di un amministratore di condominio, a meno che uno ha un appartamento suo. In qual caso non si contabilizza, usa altre soluzioni. Benvenuti, bentornati, Luca Tremolada in onda, Luca Salviole. Noi dovremmo essere in collegamento con Simone Arcagni. Non siamo in collegamento con Simone Arcagni, che è caduta la conversazione, e però possiamo lanciare già adesso quello che succederà domani sabato alle 15.30. Domani appuntamento con Radio 24 alle 15.30 con Enrico Pagliarini, 2024, trasmissione sulla tecnologia. Domani si parla di pubblicità online e in particolare anticipo una cosa curiosa che verrà raccontata: un'azienda sarda che produce vino che fa pubblicità su una web radio americana. Insomma, ci spiegherà com'è tutto questo giro Enrico. Tra l'altro c'è Enrico Pagliarini che sta osservando Luca Salvioli, se lo dice bene, l'ha detto bene? Sì, abbastanza. L'ha detto bene. Era minaccioso. Simone Arcagni, sei a View, noi ne abbiamo parlato sulle pagine di Nova, un grande momento dedicato al cinema digitale, dedicato alle tecnologie, agli effetti speciali. Che cosa hai visto di bellissimo? Ah, bellissimo, molte cose. Intanto ciao e un saluto a tutti, sono a View a Torino, appunto. Tante cose, più che visto si è ascoltato tanto, si sono viste i making of, i dietro le quinte dei abbiamo film. Un minuto e mezzo, dici la cosa che ti ha colpito, perché soprattutto sulle anteprime, su quello che insomma poi è il grande pubblico andrà a vedere, tu hai sei consulente di View. Sì, l'anteprima secondo me più significativa, vista almeno un quarto d'ora, è questo Piovono polpette, che è presentato qua alla View da Rob Bredo della Sony Picture Imagework, ed è il film con cui la Sony Picture tenta di in qualche modo fare la differenza rispetto a Pixar, o comunque cercare di essere alla pari di Pixar. Un grande dispendio di energie, di soldi, un grande lavoro sui characters, un grande lavoro sulle immagini. Rob Bredo ha fatto un intervento fantastico, ci ha portato nel dietro le quinte, ed è l'anteprima più gustosa. Domani ce ne sarà un'altra, sarà quella di A Christmas Carol di Robert Zemeckis, un film che molti aspettano. Per adesso ne abbiamo visto qualche minuto di sfuggita, ma domani avremo modo di vederlo tutto. Sul diciamo. Fronte a me caro dei videogame? Sul fronte a te caro dei videogames, lo so, domani ci sarà l'appuntamento più importante, sarà Jonathan Knight che presenta in anteprima questo Dante's Inferno, un videogame basato sull'inferno di Dante, che pare, io ho visto qualche cosina per adesso, sia proprio stato ricostruito in maniera particolarmente filologica. Sarà un pezzo davvero amato, soprattutto per gli studenti magari dei licei, no? Che una volta lo odiavano in qualche modo. Adesso ci giocheranno, ma vediamo. Ha fatto molto discutere, credo che farà assolutamente discutere. Io ti ringrazio, Simone Arcagni. Noi ci sentiremo presto e saluto Luca Salvioli. Grazie, un saluto a tutti. Ci sentiamo lunedì.